Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla Rassegna Stampa Europea. Abbiamo nelle ultime due settimane sempre parlato dell'Economist, allora facciamolo anche questa settimana. La copertina è dedicata all'imminente referendum in Scozia. Tra una settimana sapremo cosa è successo, perché è il 18 di settembre. La copertina è una torre, presumibilmente in Scozia, da cui viene ammainata, per così dire, la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Il titolo è UK Rest in Peace, RIP, che sta per appunto Rest in Peace, quindi riposa in pace, che è l'acronimo che si usa appunto quando qualcuno muore. I sondaggi sono molto contraddittori in realtà, perché i sì e i no all'indipendenza dal Regno Unito dopo oltre 300 anni appunto di Regno Unito sono molto vicini, e c'è una percentuale che varia tra il 15 e il 20% di indecisi, quindi non si può davvero dire chi vincerà. Però secondo l'Economist abbandonare l'Unione sarebbe un errore per la Scozia e una tragedia per il paese. Sapete che l'Economist ha nella prima parte proprio degli editoriali dove prende posizione chiaramente, poi c'è nella parte interna invece gli articoli dove si spiegano più le cose, si danno più dati. Però appunto in questa prima parte l'Economist scrive: questo grande stato multinazionale potrebbe essere smantellato in un unico giorno da una consultazione elettorale cui parteciperà solo il 7% dei suoi cittadini. Si attende appunto infatti una partecipazione molto vasta. L'Economist si occupa anche di un'altra elezione importante, perché comunque è un'elezione europea. Questa sarà il 14 settembre, quindi domani. Vedremo i risultati, vedremo quanto spazio riusciranno a dare i nostri giornali poi a queste elezioni. È però uno di quegli importanti cambi, diciamo, di colore di una coalizione europea. Parliamo delle elezioni politiche in Svezia. C'è una coalizione di centrodestra al potere da parecchi anni, dal 2006, e però i sondaggi la danno perdente rispetto con circa il 37% rispetto al 48% del blocco di centrosinistra. Questa è una notizia che trovate sia su Internazionale, riportata, tradotta da un settimanale che è Focus, sia sull'Economist, che spiega appunto come questa coalizione di centrodestra, benché abbia molti meriti, ha in realtà fallito, anche perché non è riuscita ad allearsi con gli ambientalisti del partito Miglio Partiet. Sapete che negli anni uno dei fenomeni forse politici più interessanti è stato che gli ambientalisti, che una volta erano quasi tutti di centrosinistra, si sono avvicinati anche ad altri tipi di partiti, quindi non esiste più il veto, diciamo, di un ambientalista ad avvicinarsi a una coalizione o anche ad avere anche posizioni di centrodestra. Però appunto qui c'è stato un po' il fallimento della coalizione di centrodestra di capire che c'era bisogno di questo avvicinamento per costruire una sorta di grosse coalizioni che avesse buone possibilità di vincere le elezioni. L'Economist si occupa anche naturalmente della Commissione Europea, ne abbiamo parlato tanto anche qui a Radio 24. Sapete, è stata finalmente annunciata da Juncker, il suo presidente, il 10, tre giorni fa, e ora naturalmente si attende il voto del Parlamento Europeo, che però, viste le premesse, dovrebbe essere positivo, perché insomma c'è stato quel gioco di poltrone di cui parlava l'Economist proprio settimana scorsa, e che forse contenta tutti e scontenta tutti, quindi paradossalmente forse appunto potrebbe esserci un voto positivo del Parlamento Europeo. E a proposito di questa coalizione, vi leggo una parte del commento apparso su Le Monde pubblicato su Internazionale di questa settimana, che in realtà la copertina la dedica alla grande IPO, cioè la quotazione in borsa, il debutto in borsa di questo colosso dell'e-commerce cinese che è Alibaba. Però poi all'interno ci sono anche tanti altri pezzi. Allora scrive Le Monde: il 10 settembre Jean-Claude Juncker ha presentato la nuova Commissione Europea. Il compito che l'aspetta è enorme. La Commissione si è indebolita durante i 10 anni di presidenza di José Manuel Barroso, il portoghese che l'ha guidata appunto per 2 mandati, ed è incapace di stabilire la rotta. Durante la crisi dell'euro non ha preso una sola iniziativa importante, lasciando i governi e la Banca Centrale Europea decidere da soli sul salvataggio dell'euro. Vi leggo l'ultima parte. La terza missione, perché di questo abbiamo, vi leggo quest'ultima parte perché di questo abbiamo parlato molto, molto, molte volte, cioè del fatto che l'Unione Europea, specie dopo le elezioni del 25 maggio, con il grande segnale di euroscetticismo che è venuto, ha bisogno di una riorganizzazione. Ecco allora che questa riorganizzazione, secondo Le Monde, deve occuparsi anche dell'immigrazione, della politica comune sull'immigrazione. Poi naturalmente c'è quella sull'agricoltura, ci sono tanti altri temi, però questo, quello dell'immigrazione, è uno dei temi forti emersi di recente. Quindi la terza missione è organizzare una politica comune dell'immigrazione. Spesso l'euroscetticismo serve a mascherare il rifiuto dell'immigrazione incontrollata. Juncker non deve fare il segretario generale dei 28, ma rappresentare i loro obiettivi comuni, niente di più, ma anche niente di meno. E capite bene che rappresentare gli obiettivi di 28 paesi, che spesso non sono gli stessi, sarà per l'appunto, non dico una mission impossible, ma una mission difficile. Per quanto riguarda i giornali tedeschi, ci sono state molte critiche perché, come forse avrà notato chi ha visto questa lista di ministri, che sono l'equivalente, appunto i commissari sono l'equivalente dei nostri ministri, non ha molti tedeschi tra di loro. In realtà però, e questo lo scrive anche l'Economist nella sua rubrica Charles Magne, attenti a giudicare dalle apparenze, perché in realtà molti ministri, specie provenienti dai paesi del nord, sono in realtà una specie di espressione della Germania, ma formalmente i giornali tedeschi non dicono questo. Per esempio la nomina di Moscovici a commissario dell'economia, che è sicuramente una delle poltrone più importanti, ha acceso delle grandi polemiche in Germania. Per esempio il parlamentare della CDU, che è il partito di Angela Merkel, Klaus-Peter Willich, su Handelsblatt ha parlato di uno schiaffo in faccia ai paesi che prima e dopo la crisi si sono attenuti a una seria disciplina di bilancio. Sapete che la Francia ha annunciato proprio 2 giorni fa che non riuscirà, farà molto peggio di noi, non riuscirà assolutamente a mantenere le regole sul rapporto deficit-PIL. La Francia, ha detto appunto Willich, per anni ha aggiustato le stime in meglio e chi commette del genere cerca di aggirare le prescrizioni del fiscal compact, sapete quelle regole tremende su appunto il rispetto dei vincoli europei, non può aspirare ad avere la credibilità e l'autorità del commissario della valuta. Critiche più o meno dello stesso tono su un altro giornale della Baviera che si chiama Passauer Neue Presse e della CSU, di un esponente della CSU, Hans Michelbach, che anche lui ha parlato di rischio di stabilità con Moscovici in quel posto. Financial Times si è occupato un po' di noi, facendo anche un confronto tra quello che succede in Italia e quello che succede in altri paesi, partendo da una parte naturalmente dalla vicenda che ha occupato moltissimo i giornali nei primi giorni di questa settimana, che è quella delle dimissioni di Luca Cordero di Montezemolo da presidente della Ferrari, che sono arrivate a circa 2 settimane dopo quella del cambio di guardia ai vertici di Luxottica, che è un'altra azienda molto famosa nel mondo. Lì se n'è andato Andrea Guerra, un manager meno che cinquantenne, ed è tornato al comando Leonardo Del Vecchio, il fondatore, che ne ha quasi 80. E allora Financial Times ha scritto di gerontocrazia al contrario, con Sergio Marchionne che prende il comando della Ferrari dopo le dimissioni di Montezemolo, in una mossa che appunto è stata definita l'opposto di quella di Del Vecchio, che si è ripreso le redini di Luxottica dal giovane per, naturalmente per gli standard italiani, amministratore legato Andrea Guerra. Interessante anche un altro approfondimento di Financial Times sulla Polonia, perché insomma la Polonia, oltre ad avere un'economia in forte crescita, essere un paese sempre più importante, ha però anche un problema a sua volta di conti pubblici. E allora se il ministro delle finanze di Varsavia, Sciurek, ha rilasciato un'intervista a Financial Times dicendo che secondo lui l'Europa deve investire 700 miliardi di euro in 5 anni in un fondo per rilanciare la crescita. L'Europa si strangola da sola, ma non è necessario, dobbiamo convincere l'Europa che deve spendere di più. E questa proposta è stata presentata poi all'Ecofin, che si è tenuto qui a Milano, perché sapete che è il nostro semestre di presidenza europea, ma naturalmente Financial Times prevedeva, come del resto poi è successo, che questa proposta si sarebbe scontrata con l'opposizione della Germania, che è sempre lì a fare da guardiano ai conti non solo suoi ma dell'intera Unione Europea. Molto interessante l'approfondimento che trovate sull'ESCO, e questo lo trovate sul sito che sapete io, di cui io sono una grande fan, che è presseurope.eu, che traduce tanti articoli da tante lingue, non solo lingue come il francese, ma anche lingue molto più difficili da conoscere, come le lingue dei paesi dell'Est. Ecco, questo articolo apparso sull'ESCO, che è un quotidiano economico francese, si intitola Per un New Deal europeo, e parla un po' di questa nuova generazione di politici in Europa, che oggettivamente c'è. Avete visto il rimpasto del governo francese con un ministro che ha Emmanuel Macron, che ha 36 anni, Federica Mogherini, che comunque è alto rappresentante per la politica europea, che ne ha 41. Ecco, questi nuovi politici, secondo l'ESECO, aprono veramente la strada a un rilancio del progetto comunitario, e naturalmente ci vorranno investimenti, ci vorrà un riorientamento della spesa pubblica. Però l'ESECO, che è comunque un quotidiano di proprietà di, tra l'altro, di Bernard Arnault, l'uomo più ricco di Francia, non esattamente un uomo di sinistra, vuol dire che questo tema dei vincoli alla crescita sta facendo breccia appunto in tutti, possiamo dire così, in tutte le ideologie anche economiche. Purtroppo era l'ultima segnalazione che faccio in tempo a fare. Vi auguro ancora un buon sabato e un augurio anche di un buon weekend da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.